tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, prima le notizie dall'interno in breve, poi quelle che arrivano dall'estero e che saranno affidate come sempre a Fabio Tavelli. La più ghiotta l'ha pubblicata stamani il Corriere della Sera, secondo cui 2 settimane fa il Milan avrebbe chiesto a niente meno che a Paolo Maldini di tornare in campo. Il titolo di questo servizio è: la proposta indecente del Milan, Maldini torna a giocare con noi. 2 settimane fa la richiesta, mancano 7 partite, ci dai una mano. Nella ricostruzione, scritta da Monica Colombo, insomma, gli infortuni consecutivi prima a Nesta e poi a Bonera, e da lì la richiesta all'ex capitano, che in questo articolo viene descritto come trasecolato, poi onorato dalla proposta ma anche stupito per il coinvolgimento dopo oltre 10 mesi di inattività, 24 ore di riflessione e poi dopo un consulto anche con la famiglia l'invito declinato, probabilmente anche perché dopo un anno senza allenarsi sarebbe andato incontro solo a brutte figure. Questa era la prima. La seconda è che il calcio italiano stasera rende omaggio alle vittime della grave sciagura ferroviaria avvenuta ieri vicino a Merano. La FIGC, d'intesa con il CONI e con la Lega, ha disposto che prima di Fiorentina-Inter e di tutte le partite del campionato di Serie B stasera si gioca, venga osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del disastro ferroviario in Val Venosta. A Roma il prefetto, potremmo anche sentire forse la voce, il prefetto si sta interrogando se anticipare o meno il derby di domenica sera delle 20.45 alle 18. Sentiamo il prefetto di Roma. Beh, diciamo che dopo i risultati di domenica ci siamo resi conto che ci siamo di fronte a una partita particolarmente complicata. Due tifoserie comunque accese, tenuto conto che si tratta di un derby, più un risultato che può essere decisivo per l'uno o per l'altro. Per cui io ho ritenuto di sentire la Lega per poter anticipare la partita, per dare maggiore sicurezza, tutto qui. Non abbiamo sentore di situazioni particolarmente allarmanti, ma per dare maggiore sicurezza mi sembrava giusto richiedere, se possibile, di anticipare la partita. I presidenti di Roma e Lazio, ha dichiarato il presidente di Lega Calcio Beretta, sono molto attenti ai livelli di sicurezza. Poi ci sono le questioni relative ai diritti televisivi. La decisione di anticipare o meno il derby alle 18 spetta per intero al prefetto di Roma. Così ripeto il presidente di Lega Maurizio Beretta. Le prime notizie che arrivano dal processo di Napoli: la difesa di Moggi ha chiesto alla 9a sezione del tribunale che venga risposta alla trascrizione di 75 telefonate che erano inedite e che sono state esaminate dai propri consulenti, telefonate riferite a conversazioni con indagati, tra i quali gli ex designatori Bergomo e Pairetto, da parte di diversi dirigenti di società di calcio. La difesa ha chiesto altresì l'acquisizione di circa 3.000 contatti telefonici con indagati da parte di dirigenti di società. Decisione di acquisire telefonate che appare comunque abbastanza scontata, informa l'ANSA. Il presidente del collegio, Teresa Casori, ha ricordato infatti una precedente ordinanza del maggio dello scorso anno in cui il tribunale diceva che la difesa poteva indicare anche altre telefonate qualora le ritenesse significative per la loro trascrizione. Nel corso dell'udienza, uno dei legali di Moggi, Trofino, in una domanda fatta al colonnello dei carabinieri Auricchio, l'avvocato Trofino ha citato una telefonata che non appartiene a quelle già trascritte e che sono contenute nelle informative del 26 novembre 2004. È una conversazione tra l'ex presidente dell'Inter Facchetti e il designatore Bergamo. Facchetti: e allora per domenica, Bergamo, facciamo un gruppo di internazionali così non rischiamo niente. Facchetti: va bene, metti dentro anche Collina. Il penalista ha chiesto al testimone, cioè al colonnello Auricchio, perché questa telefonata non fosse stata considerata dagli investigatori. La conversazione tra Bergamo e Facchetti, ha replicato il colonnello Auricchio, è stata registrata e trascritta, ma non è entrata nell'informativa perché non è stata considerata investigativamente utile. Bentornato a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Continuando ovviamente a seguire le agenzie che nel frattempo l'ANSA batterà su questa vicenda napoletana, la notizia del giorno, direi, a questo punto, se parliamo di calcio, è arrivata pochi minuti fa da Barcellona. Appare sul sito del Barcellona, c'è un grave infortunio a Iniesta, almeno un mese di stop per una rottura nel biceps femorale, quindi bicipite femorale. Eh sì, si tratta di stabilire se è semplicemente l'Inter la salta tutta la vita, andata e ritorno. Il problema è se e se guarisce, da quel che capisco, e se guarisce prima lui o Fabregas per il mondiale. Io credo che in questo momento gli spagnoli davvero stiano facendo delle macumbe, perché davvero perdere Iniesta, io sto vedendo il sito di Marca, in questo momento dice starà un mese KO, ed è un mese che forse addirittura paradossalmente può far bene, nel senso che poi può non a Barça, non tanto a Barça, dico la nazionale, certo, no, se parliamo di nazionale sì, se parliamo di Barça no. È vero che Iniesta quest'anno non è stato forse fino ad ora l'Iniesta dello scorso anno, però è anche vero che perdere una pedina così, un'alternativa se non altro così, nella fase decisiva della stagione è abbastanza pesante. Non dimentichiamoci che Iniesta ha segnato il gol che ha portato il Barcellona a Roma in finale. Iniesta è uno di quei giocatori chiave del Barcellona, che vive all'ombra di Messi, vive all'ombra perché è normale vivere all'ombra di un gigante del genere, ma che ha meno clamore di quello che meriterebbe, perché lui è veramente un giocatore totale, e lui e Xavi sono due giocatori insostituibili nel Barcellona, al punto che nel momento in cui Leo Messi viene circondato, una delle primissime opzioni è di andare a cercare Iniesta, cioè ha quasi un radar Messi che è sintonizzato sulle frequenze di Iniesta, e questi si trovano spessissimo, quindi certo, è veramente una brutta notizia per Guardiola, pur certo, se hai detto bene tu, quest'anno non ha giocato tantissimo, un po' per infortuni, un po' perché insomma d'accordo, però trattasi sempre di, come hai ricordato giustamente, di Don Andrés Iniesta. Siamo già arrivati al primo intervallo, un ascoltatore ci rimprovera di cominciare troppo tardi, si chiama Aldo. Beh, insomma, ogni tanto le notizie del giornale radio reclamano attenzione. Un altro ascoltatore scrive che 2 ore e mezza faccia differenza per la sicurezza, mi sembra incredibile in un paese civile nel 2010, a me non tanto sinceramente, perché quelle 2 ore e mezza cambiano tra la luce e il buio, e se parliamo di Teppaglia, no, perché di questo dobbiamo parlare, lo si è visto anche domenica a Genova con la Teppaglia in azione, credo che luce del sole o buio facciano purtroppo una grande differenza. Raccontato di Iniesta e del suo infortunio che lo terrà fuori dal campionato spagnolo e dalla Coppa dei Campioni per un mese, nella migliore delle ipotesi, io con Fabio Tavelli vorrei cominciare da quella curiosità che mi hai segnalato ieri, quando, insomma, come sempre il lunedì ci si sente per impostare questa conversazione, e mi hai ricordato che non c'è solo Ranieri temporaneamente, quindi un ex allenatore della Juve al comando di un campionato, ma ce ne sono, volendo, un altro paio. Beh, c'è Deschamps, che alla Juventus ha vissuto neanche tutta la stagione. Didier Deschamps è in testa al campionato francese e minaccia seriamente di vincerlo, nel senso che l'Olympique Marsiglia è una squadra che sembra avere preso un abbrivio giusto per conquistare, per tornare a vincere il campionato. E abbiamo detto di Claudio Ranieri, e non possiamo dimenticare che Carlo Ancelotti è stato un allenatore della Juventus, anche se bisogna tornare indietro di qualche anno, e Carlo Ancelotti sta guidando il campionato inglese e anche lui è seriamente indiziato per poterlo vincere. Quindi insomma sono 3 ex allenatori che più che meno comunque recenti del passato juventino, e che sono in vetta alla classifica di 3 campionati importanti. Ora questo non significa assolutamente nulla, se non nel caso di Ranieri, perché è evidente che non si può mettersi a dire che la Juventus debba rimpiangere Ancelotti, perché è ovvio, ma Ancelotti sì, è passato tanto tempo, insomma è un dato curioso. Il miglior Ancelotti non fu con la Juventus, ma il miglior Ancelotti fu poi col Milan, e è un dato. Deschamps è comunque uno che ha fatto una finale di Champions League, però l'aveva fatta prima. È un dato curioso, statistico, che tu completavi con invece la discesa nel borsino di altri allenatori che sono al momento papabili per il campionato italiano, dunque anche per la Juventus, perché se ne è parlato. Sì, se ne è parlato, poi è chiaro, questo è semplicemente un divertissement di un lunedì mattina, perché ad esempio Rafa Benitez non sta vivendo un momento di grande spolvero, ha pareggiato 0-0 col Fulham domenica, insomma se non casca il mondo, il quarto posto se lo scorda, e con tutta probabilità adesso è lui veramente l'allenatore più vicino alla Juventus, però non ha avuto una buona stagione, certamente non l'ha avuta, così come Laurent Blanc, che stava avendo una buonissima stagione, Frosinone, ha vinto il suo girone in Champions League, era primo in classifica. Insomma, l'accostamento a sirene anche bianconere, dico anche perché in realtà Blanc è stato accostato a moltissime squadre, nell'ultimo periodo non gli ha portato benissimo, perché Blanc in questo momento è addirittura quarto, se non quinto, nel suo campionato, anche se ha una partita da recuperare. Però la flessione del Bordeaux è evidente anche dopo l'eliminazione dal Lione in Champions League. Se ci aggiungiamo anche Magath, che non so se per suggestione o per qualcosa era stato accostato a un'ipotesi juventina, Magath da lì poi ha perso due partite e adesso il Bayern probabilmente gli scappa via. Sì, allora, visto che hai fatto questo aggancio al Bayern, mi sembra che abbia lasciato tracce profonde nel Manchester United quella partita, quella sfida della scorsa settimana, no? Nel senso che il Bayern si è ulteriormente lanciato, perché ha, non dico che ha risolto la pratica campionato, ma l'ha ancora migliorata nell'ultimo turno. Il Manchester, ho paura che se la sia proprio compromessa del tutto. Il Manchester rischia di arrivare terzo a questo punto, che non vuol dire nulla, perché comunque arrivare secondi o terzi è la stessa cosa. Però il Chelsea questa sera alle 21 gioca in casa contro il Bolton, e insomma io credo che insomma si recupera si completa la 34esima giornata tra oggi e domani. Io credo che il Chelsea questa partita la vincerà, andrà a più 4, quindi non ci saranno più problemi per la squadra di Ancelotti, che non ha un calendario particolarmente complicato, ha solo una partita difficile, molto difficile, che è quella di sabato col Tottenham, poi per il resto dovrebbe essere un finale di stagione in discesa per il Chelsea. Bisogna vedere l'Arsenal cosa fa contro il Tottenham, che è arbitro a questo punto della volata finale. Giocano mercoledì alle 21 Tottenham-Arsenal, quindi il Tottenham gioca prima con l'Arsenal e poi con il Chelsea, due derby mica da ridere a Londra. Insomma, se il Chelsea e l'Arsenal li vincono, faranno volata a due, perché effettivamente il Manchester United è in pesante flessione. Oltretutto nel prossimo weekend gioca contro il Manchester City, è vero. Un derby nel quale in questo momento il City sta molto molto meglio, nonostante qualche sciocchezza detta da Tevez questa mattina sui giornali. Sì, perché io non capisco a volte gli inglesi se tirino fuori se abbiano dei grandi archivi e ogni tanto tirino fuori cose, perché Tevez questa cosa l'ha già detta almeno tre mesi fa, due mesi e mezzo fa. Insomma, praticamente ha detto che i metodi di allenamento di Mancini non gli piacciono e che Mark Hughes avrebbe meritato più tempo per costruire il City. Forse la seconda parte è vera, perché effettivamente Hughes non stava facendo bene, ma non è che era in zona retrocessione, quindi poteva anche avere un po' più di tempo per lavorare. Insomma, sul fatto che Mancini abbia dei metodi che a Tevez non piacciono, insomma, è un problema di Tevez, io credo, non tanto di Mancini, perché sì, Mancini sì. Mi sembra che d'altra parte Fabio, a ciascuno il suo. Tu leggi queste sciocchezze sul sito, io ne leggo qualcuna qua sul display. Enrico La Savona scrive che Xavi e Iniesta sono due giocatori normali trasformati dal doping e tra i primi clienti del dottor Puerta. Io mi domando che cosa fumino in provincia di Savona, no? No, io mi domando perché anche a quest'ora della giornata ascolti a tempo di sport. Sì, no? Certo. Cioè, certo. Sono altre le cose alle quali deve abbeverarsi. Certo, altre fonti suggeribili a questo signor Enrico. Dunque, abbiamo parlato di curiose storie di allenatori. Beh, ce n'è una che è a lieto fine, perché a una fine comunque Di Matteo è arrivata, e mi pare che dalla gavetta che aveva fatto alla promozione in Premier League con il West Bromwich, questo vecchio giocatore di nazionalità svizzera che ha giocato tanti anni in Italia, che poi ha chiuso la carriera nel Chelsea e che ha giocato molto in nazionale, sia comunque una bella storia, insomma. Ma non c'è dubbio, anche perché stiamo parlando di uno dei primi giocatori italiani che andò a giocare nel campionato inglese, giocò, lo ricordano tutti, giocò nel Chelsea, è diventato allenatore. Insomma, a me pare che questa sia una di quelle storie che iniziano abbastanza a fari spenti e che poi possono diventare grandiose, perché insomma il West Bromwich era retrocesso alla fine della scorsa stagione ed è tornato subito su, e non è facilissimo, anche se poi in realtà c'è riuscito anche il Newcastle. Lo allena Roberto Di Matteo, che del calcio inglese è espertissimo, visto che ormai vive lì da tantissimo tempo. Ripeto, è un allenatore, è un ex giocatore, un allenatore che per iniziare la sua carriera, che ovviamente gli auguriamo luminosa, ha avuto bisogno di esibirsi su un palcoscenico non immediatamente scintillante, cioè altri hanno avuto come prima squadra subito una squadra importante, lui invece si è costruito, credo, un'esperienza che gli tornerà utilissima. Poi davvero non è detto che diventi un grandissimo allenatore, però insomma è uno che ha di fatto si è ritirato nel 2000, ha aspettato il giusto per cominciare a fare l'allenatore e insomma l'ha fatto bene, perché mi sembra che il West Bromwich alla prima stagione sia tornato subito su e lui abbia contribuito bene. Prima aveva allenato una squadra anche di una categoria inferiore, l'MK Dons, per cui diciamo che la gavetta la sta conoscendo, e certo, in questa fase la mette nel suo curriculum, insomma. Pur essendo ancora così giovane, perché poi ha 39 anni Roberto Di Matteo. Lui è del 70. Ma per l'appunto è partito, deve compierli quest'anno 40, ma a maggio, sì, il 29 di maggio. Però appunto, a differenza di altri che sono partiti subito dalla grande ribalta, quel po', non dico tanto, ma quel po' di gavetta se l'è un pochino consumata. Io tornerei, per concludere l'appuntamento di oggi, tornerei in Spagna, perché c'è un turno di campionato infrasettimanale, credo che sarà l'ultimo anche per loro questo, interessante, nel senso che sì, si gioca oggi in Inghilterra ma si completa soltanto la giornata di domenica scorsa, mentre invece in Spagna tra stasera e giovedì col posticipo del Real si giocano delle partite serie. Sì, no, l'ultima cosa su Di Matteo mi è venuta in mente, sì. Adesso lui allenava questa squadra, l'aveva ereditata a Polins, altra vecchia conoscenza, però, certo. altro vecchio bucaniere del centrocampo. Sì, si spalma in tre giorni la 32esima giornata del campionato spagnolo, si giocano tre partite questa sera: Valladolid-Siviglia, Gion-Tenerife e Getafe-Villarreal, quindi diciamo che parliamo del sottoclù. Il Barcellona gioca in casa domani alle 22 contro il Deportivo La Coruña, partita non impossibile ma comunque che può presentare un minimo di difficoltà se non affrontata correttamente. Il Real Madrid gioca giovedì alle 20 contro l'Almeria in trasferta, cioè, anche qui io credo che il 2 in schedina sia abbastanza garantito. Detto questo, ormai in Spagna si stanno solo domandando se il Barcellona farà quota 100 ed è anche possibile. Il Barcellona ha 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, sono 3 che diventano in realtà 4 perché c'è il vantaggio dello scontro diretto, sì. In caso di arrivo a parità il Barcellona avrebbe comunque vinto il campionato. Io onestamente un filotto di altre 7 partite consecutive vinte, anche se ho guardato il calendario non ci sono scontri pesanti, proprio perché non esistono partite considerate difficili in Spagna, nel senso che il Barcellona una volta che ha affrontato il Real Madrid teoricamente dovrebbe vincerle tutte, così come dovrebbe vincerle tutte il Real Madrid. Al Real Madrid non basterà vincerle tutte, certo. È chiaro che se il Barcellona ne pareggia 2, il Real Madrid se le vince tutte vince il campionato. Onestamente per me è difficile pensare che tutte e due facciano l'unplay, quindi è possibile che uno o due inciampi, soprattutto se il Barcellona andrà in finale di Champions League, come naturalmente ci possano essere, non sulla ci auguriamo, strada. Certo. Possa averli. Io onestamente però aspetterei a dire che terrei ancora le bandiere blaugrana anch'io perché c'è anche una coppa di mezzo, ci sono notizie come quella di stamattina, no? di la perdita di Iniesta, quindi insomma ci andrei ad agire. No, anche perché davvero pareggiare 2 partite non voglio dire che è niente, però può succedere, non è una passeggiata, certo. Poi, oltretutto pareggiare non è reato, è ancora non è ancora reato. Può capitare. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24. Anche alla Juventus è successa una cosa molto simile stamane a quella che è toccata a Barcellona. Giovinco ha riportato una distrazione di secondo grado alla gamba sinistra, i tempi di recupero parlano di almeno 40 giorni e quindi la stagione di Giovinco è finita stamattina. Luca scrive: dopo Maldini il Milan pare aver incassato il no anche di Vjerovod e ha dunque brillantemente ripiegato sul giovane Yepes, che come è noto di anni ne ha 34. Beh, per fortuna a Savona ce n'è uno solo che si è fumato il cervello, sono arrivati molti messaggi da Savona e dal Savonese. Moreno per esempio scrive: proprio da Savona io penso che Xavi oggi sia nel suo ruolo il più forte del mondo, sono completamente d'accordo, anzi credo che sia una mancanza di rispetto chiamarlo semplicemente Xavi senza premettere il professor, Xavi, perché come gioca questo a metà campo, insomma, non se ne sono visti tanti, no, nella storia del calcio. E invece Andrea Dolci infierisce sul Milan e sul richiamo a Maldini strillato dal Corriere della Sera, dicendo: vuoi vedere che il Milan a suo tempo non organizzò nulla per festeggiare Maldini, per tenere la porta aperta a un eventuale rientro in rosa. Certo che questo Galliani è proprio un satanasso. Firmato Andrea Dolci, che è un affezionato ascoltatore. A Genova altri tre arrestati, questa volta sono tre tifosi della Sampdoria, per gli scontri avvenuti fuori dal Galileo Ferraris, insomma, dallo stadio Ferraris, fuori da Marassi domenica sera. Altri quattro identificati e ora ricercati. Sono arresti in differita perché foto e filmati documentano la loro presenza agli scontri. E poi qualcuno appunto domanda che differenza ci sia tra giocare alle 18 e alle 20:45. Questa per esempio è una differenza. Sandro Salerno, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io la chiamo perché mi sono trovato a fare un'osservazione statistica sul campionato della Roma e su quello dell'Inter. Sì. In pratica quest'anno la Roma ha, tra campionato e Coppa, ha segnato con 19 giocatori diversi, quindi portando un po' tutta la squadra a fare risultato. Dall'altra parte c'è un Inter che è stata sin dall'inizio del campionato, credo, troppo milito dipendente, che ha già giocato 42 partite quest'anno con l'Inter, e forse il declino dell'Inter ha coinciso con il declino fisico fisiologico di appunto Milito. E quindi non so, volevo sapere cosa pensava di queste statistiche. Grazie. A me pare che Milito tenga ancora botta, e come al momento. Lo risparmierei in qualche occasione, tipo stasera, per esempio, l'ho visto annunciato in formazione. Io credo che ci sia stata poca rotazione, non lo credo soltanto io, ci sia stata un po' poca rotazione nell'Inter di quest'anno, e questo credo che spieghi questa incredibile rimonta subita dalla Roma, nel senso che all'indubbio miglioramento che l'Inter ha avuto nel suo rendimento europeo ha corrisposto oggettivamente un peggior rendimento in campionato, soprattutto negli ultimi 2-3 mesi. All'origine di questa flessione mi pare ci sia proprio una troppo scarsa rotazione, avendo quel po' di rosa a disposizione. Nicola, chiamato da Lecco, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, sono Nicola da Lecco. Ascolti, volevo fare una breve considerazione e poi un suo parere su questa mia considerazione riguardo a questi nuovi sviluppi di Calciopoli. Io premetto, sono tifoso juventino e onestamente anch'io 4 anni fa, ascoltando le intercettazioni, dissi: oh, ci hanno fatto bene a tagliarci le gambe, e morta lì, perché comunque chi sbaglia paga. E tagliarci le gambe, che è condannare, sì, vabbè. Sì, tagliare le gambe nel senso di condannare, dobbiamo essere un po' immaginifici, va bene. Però dopo ci hanno raccontato un po' la favola che Moggi era il diavolo, che la Juve era l'unica, e si è diciamo ammantato un po' tutto di silenzi. Invece adesso sembra quasi che stanno uscendo anche intercettazioni che riguardano magari l'Inter o anche il Milan, che io l'ho sentita una prima, l'ha citata lei, sì, di Facchetti, che non mi sembra leggerissima. Adesso da tifoso a me non mi interessa sinceramente avere scudetti indietro, l'Inter in B, anche perché sarebbe veramente, credo, dovesse mandare in B l'Inter, il calcio italiano veramente andremo secondo me a picco come credibilità, come appeal, come tutto. Però credo che comunque qualche spiegazione adesso Moratti secondo me dovrebbe darla, perché lui si è sempre trincerato dietro: noi siamo gli onesti, noi non abbiamo fatto niente. Però credo che adesso, secondo me, qualche spiegazione dovrebbe anche darla. Sì, io prima delle spiegazioni di Moratti, sinceramente, sono curioso di vedere che cosa valutano i giudici, e cioè se queste nuove intercettazioni intanto vengono ammesse, e mi pare di capire che l'orientamento va verso il sì, e soprattutto che valutazione gli danno. Io non sarei drastico come lei nella valutazione di queste telefonate. In che senso? Nel senso che è indubbiamente sgradevole ed è contrario a quello che era stato detto e spiegato allora ancora dai protagonisti, e quindi questa è una colpa grave. Il fatto che altri partecipassero, e per esempio anche i dirigenti dell'Inter, a questo concerto telefonico. Se poi vogliamo ricordare qual era il tenore e il tono delle telefonate che portarono a quelle condanne, e sentiamo invece il tono di quella, per esempio, che ho citato prima e che stamattina è stata citata in aula, beh, insomma, se uno vuol cogliere la differenza la coglie, se uno non la vuol cogliere evidentemente gli va bene così, perché mi sembra che in un lato in un caso si tuonasse, dall'altra parte si belasse, ecco, questo mi sembra un po' lo spirito. Ma ovviamente toccherà ai giudici fare di queste valutazioni. Lorenzo da Belluno, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Allora, una considerazione in contesto Champions League. Da buon italiano, non è per cambiare le regole, però mi chiedevo, e le chiedo anche a lei, come mai negli ultimi anni Francia e Germania abbiano sempre avuto solo 3 squadre in Champions League, e adesso giustamente l'Italia sta perdendo la 4ª squadra, non per il prossimo anno ma della Champions League che ci sarà fra 2 anni. Mi chiedevo come mai non si potesse avere la 4ª squadra, un po' tutte queste nazioni che sono al vertice del calcio europeo. Francia e Germania hanno dimostrato anche quest'anno di meritare ampiamente la 4ª squadra, e quindi mi sembrava abbastanza così un po' sgradevole che l'Italia andasse a perdere una squadra in Champions League tra 2 anni, che mi sembra abbastanza un po' scandaloso, visto che ci sono delle squadre perché scandaloso, insomma, a parte che la Champions League, quando si chiamava Coppa Campioni e ci andava solo chi la vinceva, quella era una roba seria, e da allora lo è molto meno. Non capisco cosa c'entri l'aggettivo scandaloso, cioè ci sono dei parametri molto precisi, se c'è una classifica di ammissione che non è contestabile è questa, no? Perché dipende, è basata esclusivamente sui risultati. I risultati portano determinati coefficienti, chi ha voglia di spaccarsi la testa, io non lo sicuro, si mette lì e fa i conti. Dagli ultimi conti sembra che tra un anno, e cioè non subito la prossima stagione ma dalla successiva ancora, l'Italia perderà una squadra e prenderà la Germania. Insomma, io credo che il paese sia alle prese con problemi leggermente diversi da questi, così a spanne. Danilo, Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Grazie per l'opportunità. Niente, io volevo rispondere al giornalista che tra l'altro stimo e ammiro, Fabio Tadelli, no? Sì. Che praticamente una decina di giorni fa, insomma, siccome adesso è nato questo dibattito chi più grande fra Maradona e Messi, io diciamo ho ascoltato le sue considerazioni, però si è dimenticato di dire una cosa, che Maradona, io sono del 72, e sono interista, però devo riconoscere a tutti gli effetti che Maradona è stato il più grande in assoluto che ho visto, perché Maradona è arrivato a Napoli nell'84 ed è arrivato quando aveva, mi scusi Danilo, dato che Fabio Tavelli in questo momento non c'è, ne faccio le veci io. Fabio Tavelli parlava, ispirato da me, insufflato, insomma, comunque, per causa mia, ha stirato un parallelo tra Messi e Maradona a pari età. Non ha detto che Messi è più grande di Maradona. Lei adesso si è lanciato invece in una intemerata che riguarda la grandezza assoluta dei due. Credo sia ovvio che Maradona rimane al momento inarrivabile, ma se li paragoniamo alla stessa età, lei adesso ha parlato di 84 quando arriva a Napoli, Maradona c'aveva 24 anni, questo qui non è ancora 23. A 23 anni anch'io sono d'accordo con Tavelli che Messi forse ha fatto già qualcosa in più di Maradona. Ecco, però io diciamo, mi sarebbe piaciuto vedere, sicuramente non sarà possibile vedere Messi in una squadra più piccola del Barcellona, perché Maradona, bisogna ricordarsi, è arrivato in un Napoli, ha fatto diventare grande un Napoli che giocava con Renica libero, Francini terzino, Bruscolotti stopper, sì, Ferrario, Moreno Ferrario altro terzino, Bertone sulla linea di mediana, il grande Francesco De Napoli, Romano, Salvatore Bagni, insomma Maradona gioca insieme con Xavi, come ha detto giustamente lei 10 anni fa, che è il più grande centrocampista in questo momento al mondo, gioca con Xavi, Iniesta, Ibrahimovic, ha giocato con Eto'o, insomma, e Maradona sia anche diciamo, Maradona ha finito di giocare nel 94 e Messi ha iniziato a giocare nel 2004, a 10 anni di distanza da quando Maradona ha finito. Però Maradona ha fatto grande il Napoli e ha fatto grande l'Argentina. Tra l'altro, se andiamo a vedere le rose... Ma Danilo, certo, mi scusi, perché siamo vicini al ragionamento del traffico, ma nessuno discute la grandezza di Maradona, né la sua leadership su quelle due squadre. Maradona è stato Maradona e rimarrà per sempre Maradona. Il divertissement adesso è interrogarsi su quanto Messi possa provare a scalfirne questo ruolo da fenomeno di tutti i tempi. A 22 anni e 10 mesi mi sembra che stia promettendo molto, ma molto bene, e che stia segnando più di quanto segnasse allora Maradona, che era però molto più leader in squadra. Ci sarà tempo di farlo, no? Questo paragone questo era fatto sui 22 anni, perché si può fare adesso. Quello sulla grandezza definitiva lo si farà quando Messi avrà terminato, speriamo tra tantissimo, la sua carriera. Prenotati da Como, da Mantova, da Milano, però abbiamo da sentire il nostro appuntamento con il ripasso della storia affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 13 aprile 1958. A San Siro, il Milan di Gipo Viani, semifinalista in Coppa dei Campioni ma sorprendentemente terzultimo in campionato, coglie un successo prezioso in chiave salvezza, travolgendo la Lazio per 6-1. Mattatore indiscusso del match è l'attaccante Carlo Galli. L'ex romanista, sentendo aria di derby, si scatena e realizza 5 reti, sfiorando il record assoluto di 6 gol in una gara, appartenente al grande Piola. Qualche anno più tardi Galli approderà proprio alla Lazio, dove, dopo 3 stagioni, chiuderà la carriera nel 1966 all'età di 35 anni. Carletto Galli, ho l'età giusta per, ahimè, per ricordarmelo. Un altro brutto episodio che è accaduto domenica, di cui dà notizia a tutti i giornali, ma insomma lo amplifica giustamente, secondo me, il Corriere dello Sport: una follia accaduta a Verona subito dopo la partita, e una tragedia sfiorata perché la delusione per il pareggio 0-0 tra Verona e Pescara ha indotto qualche demente ultra del Verona a tirare un masso, non un sasso, sul pullman della squadra da un cavalcavia, rischiando di provocare davvero una tragedia. Per converso, quello 0-0 tra Verona e Pescara ha fatto felici i tifosi del Portogruaro, tra cui la signora Lilli, che mi ha scritto per far notare questa strepitosa rimonta del Porto Summaga, così si chiama, perché è reale questa rimonta. Il Porto Summaga sembrava liquidato addirittura per retrocedere a un certo punto della stagione. In ogni caso l'ha combinato malissimo, e invece ha fatto, è la Roma del girone B di quella che una volta si chiamava Serie C 1 e che adesso non so nemmeno più come si chiama, perché non ha nessuna importanza, si chiama Lega Pro, e ha fatto questa rimonta alla maniera della Roma. Adesso ha affiancato il Verona e certamente sembra avere, come sempre per chi arriva da dietro, sembra avere lo sprint più lanciato. Poi, tra gli argomenti ereditati, indubbiamente c'è questa sentenza abbastanza incredibile del giudice sportivo di ieri, che ha scagionato Camoranesi e non gli ha inflitto la squalifica da prova televisiva, ma non tanto per colpa del giudice sportivo, che non ne può nulla, ma perché, come si legge dalla motivazione, scrive il giudice: le immagini documentano che Camoranesi alzava il braccio sinistro all'altezza della spalla, colpendo con il gomito il volto dell'avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente. Quindi è chiaro, 3 giornate della prova televisiva. Decisivo però è stato l'intervento dell'arbitro Valeri, che, interpellato dal giudice, ha dichiarato di aver reputato un normale contatto di gioco quello avvenuto tra i due calciatori e null'altro. Quindi la responsabilità è tutta dell'arbitro, che non solo stava a 5 metri dall'accaduto, non solo non ha visto quello che era accaduto, ma se l'ha visto, e comunque questo dichiara, l'ha reputato un normale contatto di gioco, quando invece il giudice sportivo, come il resto del mondo che ha visto la sequenza televisiva, sa e ha capito che quella era una gomitata bella e buona. Tocca a Franco da Mantova, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Niente, avevo un paio di domande. Uno, per quanto riguarda Calciopoli, ha già risposto prima l'ascoltatore precedente. Ne avevo un'altra che riguarda invece un discorso che ho sentito fare da Ancelotti lunedì mattina su Rai 1, su Radio 1, e riguardava diciamo le possibilità nel prossimo mondiale dell'Inghilterra e dell'Italia. Ha argomentato molto bene, secondo me, Ancelotti, dicendo che secondo lui l'Inghilterra ha una rosa che è all'apice, sia per quanto riguarda l'età che per quanto riguarda appunto la forma fisica dei suoi elementi, mentre invece, beh, questo non lo scopre sicuramente lui, l'Italia ha un'età media molto alta e non ha avuto e non avrà per il prossimo futuro sicuramente ricambi generazionali all'altezza. Non so cosa ne pensa lei. Ma comincerò a pensarci tra un mesetto e mezzo. Adesso sinceramente di Italia, di mondiali, non mi sembra, come dire, in agenda. No, ci sarà tutto il tempo, poi quando finisce questo campionato che è ridiventato bellissimo e quando finirà la Coppa, che mi pare altrettanto appassionante, ci sarà tutto il tempo poi per arrivare alle nazionali e per levarci la voglia durante il mondiale. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io volevo tornare su delle sue parole che ha detto poco minuti fa un ascoltatore, in cui diceva che c'era differenza, così mi è sembrato di capire, tra diciamo le telefonate dei dirigenti della Juventus che diciamo abbaiavano e contro invece di contro le telefonate dei dirigenti, per esempio dell'Inter, che belavano, no? Sì. Però io dico una cosa. Ma era per rendere un'idea, insomma. Sì, sì, no, però dico, ecco, quello che io non riesco a capire dai ragionamenti che sto sentendo in questi giorni è che differenza ci può essere dal punto di vista sportivo. Penale è un altro discorso, perché penale, ok, se ci sono minacce, roba del genere, poi vanno viste in sede penale e quello avrà un suo percorso. Ma quello che non riesco a capire è che differenza c'è tra una minaccia, cioè tra un favore ottenuto con una velata minaccia o comunque con un tono di un certo tipo e un favore ottenuto belando. Cioè, un favore è un favore. Se io lo ottengo, diciamo urlando, se lo ottengo ammansendo, però dal punto di vista sportivo, secondo me, la cosa è grave allo stesso modo, cioè non cambia. L'importante è che io ho ricevuto un favore, che io ho fatto una pressione. Ma bisogna vedere chi li riceveva i favori e chi invece la prendeva da un'altra parte. Sempre per usare quel linguaggio immaginifico di prima, no? Cioè, poi, se vogliamo provare a capire davvero, in assenza di fatti nuovi, significativi e diversi da quelli a parer mio acquisiti fino adesso, bisogna contestualizzare il tutto e vedere poi come veniva. Come andava a finire, però tanto qua questa è una materia in divenire, Giovanni, quindi non è che nessuno sa, nessuno ha idea di come andrà a finire, di cosa accadrà ancora. Stiamo assistendo a una cosa che si sta sviluppando, sono sensazioni del momento. Adesso leggo un'altra agenzia che è appena uscita, non ho ancora avuto il tempo di leggerla sul serio prima di darvela in onda, sicché in tempo reale, tra le telefonate trascritte dalla difesa di Moggi, che ne ha chiesto l'acquisizione al Tribunale di Napoli, vi è anche una telefonata di condoglianze all'ex presidente dell'Inter Giacinto Facchetti per la morte della sorella, nonché una telefonata che Bergamo fa a un dirigente del Bologna per ottenere un numero di telefono dell'allenatore Mazzone richiestogli da un giornalista. E quanto ha sottolineato in pubblico il pubblico ministero Giuseppe Narducci in chiusura dell'udienza del processo di Calciopoli. Il PM ha comunque precisato che la procura non si oppone all'acquisizione, in modo che possano essere, viva Dio, trascritte fedelmente e potremo così ragionare sui dati veritieri. Mi pare che al momento il pubblico ministero Narducci sia abbastanza convinto del fatto suo e abbastanza convinto che il tentativo di scoperchiare, cioè di allargare una fogna di cui invece si era, come dire, i titolari, no? A pieno titolo, ho l'impressione che poi vedremo che effetti potrà portare. Ripeto, sul divenire lo valuteremo. Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi in redazione con Franco Piantanida. Buon pomeriggio a tutti.